Messor Barbara Nigra, formica fondatrice, attenzione, sta fondando il suo nido e non è ancora laureata in ingegneria. Io sono nato in una famiglia illuminata, lontana dalle ideologie, dall'autoritarismo, dal clericalismo. Mio padre era un medico condotto, era molto amato nella provincia di Piacenza e da bambino mi portava con sé in campagna per le visite. Ecco, posso dire che è stato mio padre a mostrarmi la sofferenza dei contadini e anche a raccontarmi l'intelligenza naturale delle formiche. Eh sì, Aldo diceva, era d'inverno, no? Allora, le formiche stavano ad asciugare il grano che si era bagnato. Arriva la cicala, tutta affamata, che chiede un po' di cibo, no? Le formiche la guardano così, no? Tu dove eri l'estate scorsa quando noi facevamo le provviste? Io d'estate non ho tempo, no? Io d'estate canto. Ah sì, tu d'estate canti, allora d'inverno balla. Come va col nido? Tutto bene? E pensare che invece io forse dovrò sfrattare dal mio di nido. Dovrei fare come la formica parassita, quella che conquista il formicaio straniero, sì. Io come faccio da solo? Come faccio io a portare via tutti i libri, le ceramiche, i collage, gli assemblaggi? E le formiche poi, amici, è tempo di preparare la scialuppa di salvataggio. Nell'attesa non uccidete i vecchi, nell'attesa non uccidete i pazzi, nell'attesa non uccidete le querce, nell'attesa non uccidete i lupi, nell'attesa, mi raccomando, soprattutto non uccidete le formiche. Ecco, gli amici. I miei amici mi hanno dato una mano, mi hanno aiutato, hanno firmato degli appelli, no? Elsa, Pierpaolo, Dacia, degli appelli perché io ottenga un sussidio da parte dello Stato. Ebbene sì, i miei amici hanno fatto questo, perché hanno detto... Io sono stato vittima della più eclatante discriminazione che l'Italia ricordi, solo che l'Italia non ricorda. E quello che per tutti quanti è stato semplicemente il caso Braibanti, per me è stato un pezzo della mia vita. Un pezzo della mia vita preso e buttato via. Solo la mia storia con te, Giovanni. Solo quella mi ha dato un po' di felicità. Thank you. soprattutto con i tuoi, del resto la tua era culturalmente una famiglia di destra, borghese, ben pensante, cattolica, no, ultracattolica, una di quelle che se da bambino ti appunto un'ape è perché hai fatto un cattivo pensiero. Da piccolo mi vietavano i fumetti, persino Topolino. E potevi leggere i libri in parrocchia. Neanche il fanciullo presso Gesù. Dostoevsky? Sospetto. Tolstoi, Nietzsche? Vietati. Poi un giorno venni a sapere che dalle nostre parti, attorno ad Aldo Braibanti, si era costituito un gruppo di artisti ed intellettuali. Intellettuali? Cercano le formiche? Lo Stato che ci impedisce di essere come siamo è più che uno Stato oppressivo. Giusto! È uno Stato patologico. Bravo! E così quella sera tornai a casa e detti l'annuncio ai miei. Che cosa? Non vuoi più continuare il collegio? Negativo. Che cosa vuoi fare? Sentiamo. Voglio fare il pittore. Il pittore? Lo Stato che ci impedisce di essere come siamo è più che uno Stato oppressivo, è uno Stato patologico. Ritenendo noi si trattasse di esaurimento nervoso, lo facemmo visitare dal medico di Piacenza. Giovanni, hai sentito che cosa dice il dottore? Il responsabile di questa crisi è senz'altro i Braibanti, eh? I tipi come lui sarebbero da eliminare. In seguito lo portammo da un professore, il professor Rossini, uno specialista che a Modena c'è una casa di cura. Il ragazzo è suggestionato al punto da non essere più lui a parlare. Se io non sapessi che ha 21 anni, direi che è un 17enne in crisi. Iniziai a preoccuparmi. Tuo padre avrebbe avuto il coraggio di farti rinchiudere. Meglio che tu tornassi a casa per un periodo. Meglio che tu riprendessi gli studi. Tornai a casa e ripresi gli studi. Passasti la maturità, ma poi litigasti ancora con i tuoi sulla facoltà da scegliere. Alla fine ti iscrivesti all'architettura. Alla cattolica. Naturalmente. Però almeno era a Milano, lontano da loro. Ma poi arrivò il 62. Ero maggiorenne. E allora mi chiedesti di salire a Milano con te. Io te lo dissi che insieme noi avremmo potuto vivere solo in maniera francescana. Ma tu niente. Io voglio vivere con te. Con quel vecchiaccio che ti sta distruggendo la personalità e tutti i valori in cui hai sempre creduta. A quale valore? La religione, lo Stato, lo studio. Va bene, se mi cercate siamo alla pensione in Yolanda, abbiamo preso una camera. Una sola camera? Sì, matrimoniale. Mio Dio! Confidarono con un predicatore, amico di famiglia. Padre Dalbon! Padre Dalbon rivelò loro l'arcano. Forse al fondo dei rapporti tra vostro figlio e l'altro uomo potrebbe esserci qualcosa. Qualcosa? Qualcosa. Ma qualcosa cosa? Qualcosa di morale, ecco! No! Per allontanarmici lasciammo Milano e ci trasferimmo a Firenze da un mio amico, il pittore Giorgi. Poi da Firenze a Roma, dove prendemmo in affitto una stanza in via Montecatini 5 alla pensione Zuanelli. Un periodo felice per noi, quello passato a Roma. Ma se mi dicono che fate la vita dei miserabili, sempre chiusi dentro, e che vi preparate i pasti in camera. Ma facciamo per risparmiare, ma perché non accetti il fatto che tuo figlio viva poveramente? Solo uno che è stato plagiato abbandona una famiglia agiata per vivere poveramente. E allora San Francesco? San Francesco non conosceva Braibanti. A Roma disegnavi, studiavi, dipingevi come i tuoi non avrebbero mai pensato che tu potessi fare. 18 mesi, mezzo migliaio di disegni, di gouache, di assemblage. Quadri strani, beh! Sono fatti con dei chiodi, con dei bottoni, con dei pezzi di specchio, robaccia del genere. Tutti sono stati venduti. Ma chi ha i ciechi? Poi i tuoi ci misero dietro delle spie, scoprirono la nostra stanza a Roma e ricominciò il tormento. Venivano a trovarti una volta al mese. E ogni mese mi chiedevano la stessa cosa. Torna a casa! Negativo! Riprendi gli studi! Negativo, devo andare, ho fatto tardi. Ma quello là ti fissa anche gli orari! Vado, Non ti lascia solo un momento. Non è vero. Ma se ti segue anche al gabinetto, mio Dio. Ma chi ti dice queste cose? Il gabinetto della pensione serve anche per altri scopi. Che schifo. Per lavare i panni, per lavare i quadri. Basta, basta. E mio padre ti denunciò. Inoltrò alla procura della Repubblica un esposto in cui si raccontava che suo figlio, fin dall'età di 19 anni, era entrato nell'orbita di uno strano individuo sospetto di pederastia. La procura iniziò un'inchiesta in ordine a gravissimi fatti di plagio commessi in ambiente pseudo-artistico. Finché il primo novembre... bussano alla porta. Vado io. Quattro uomini irrompono nella stanza. Sono tutti quattro in vario grado parenti di Giovanni. Due fratelli, un cognato e il padre. Torna a casa. Tua madre si sente male. È negativo. I quattro mi spingono e mi fanno cadere gli occhiali. Quattro contro uno, eh? Quattro che ti vogliono bene e uno che ti vuole male. Lasciatemi, lasciatemi. Portalo fuori. Ando, ando. Trascinano per strada. Ho detto lasciatemi. Lo caricano su una Mercedes nera. Aiuto, aiuto. È assolutamente serena. E certo, non deve essere serena la coscienza di quei miserabili che mi accusano. Solo mi dispiace moltissimo per tutte quelle persone che mi vogliono bene e soprattutto te, che hai sofferto tanto e che sei lontana. Devi stare serena. La mia innocenza sarà provata. Il personale di sorveglianza è rispettoso e tra compere, spese e pacchi il cibo non manca, solo che qui la vita è noiosa e inutile. Io cerco di studiare, ma proprio non ce la faccio, mamma. Sopporterò questa cattiva prova con tutte le forze di cui dispongo. Ora è così la mia vita. Al mattino alle 7 c'è la pulizia della cella, poi 2 ore d'aria in cortile, la minestra arriva verso le 11:30, poi c'è la spesa, passa allo spesino, ma poi c'è il periodo più lungo, fino al buio. Di solito verso le 9, le 10, finiamo col dormire. La luce nella cella è sempre accesa. Io penso e spero che questo periodo assurdamente subito finisca presto. Il mio processo comincia mercoledì. Speriamo sia breve. Dice di avere 3 interessi diversi: per la poesia, per le arti figurative e per la vita delle formiche. Esiste una radice comune fra questi tre interessi? Sì. Quale? Io. Come ha detto? La radice comune sono io. In che senso? Nel senso che in queste tre cose io realizzo la mia personalità. Vede, signor Braibanti, invece a noi sembra che poesia, arti figurative e vita delle formiche siano interessi così diversi che vorremmo cercare di capire qual è per lei una radice comune. L'interesse verso i problemi della vita. Mm. E se invece che per le formiche il suo interesse fosse stato per gli uccelli? Tutte le strade portano alla poesia, avvocato. Le ricordo per esempio che nel mito greco si dice che fu Zeus a trasformare le formiche in uomini. Io credo che nelle formiche rimanga molto dell'umano e che in certi umani ci sia ancora qualcosa della formica. Professore? Sono professore. Non ha una laurea in filosofia? Sì, ma non ho mai insegnato. E come si definisce allora? Vediamo. Filosofo no, poeta no, scienziato no, dilettante. Dilettante? Nel senso di Leonardo da Vinci. Vede, professore, vede, signor Braibanti, noi vorremmo soltanto cercare di capire come lei vede il mondo, come vede la famiglia. In un suo scritto lei ci parla di religione cosmica. Ci vuole spiegare che cos'è questa religione cosmica? Ma questa è una teoria di Einstein, avvocato. Dovrebbe chiederlo a lui. Einstein è morto? Davvero? E invece il suo pensiero qual è? Per quel che riguarda, che ne so, la politica? Sentiamo. Marxista, ma ispirato alle correnti più moderne. E per quel che riguarda invece la famiglia? La famiglia è un legame di sangue. Appartiene a quasi tutte le specie animali, uomo compreso. E se la famiglia è un tale legame, come mai lei invece permise a Giovanni San Fratello di abbandonarla? Ma quella era la sua volontà, avvocato. Oppure avrei dovuto, che ne so, plagiarlo. Lei lo teneva chiuso in camera in una pensione. Non è vero. In quelle rare volte che uscivate, eravate sempre insieme. Neanche questo è vero. Non è vero, signor Braibanti, che lei seguiva Giovanni San Fratello persino quando si recava al gabinetto. Ah, questa poi è una favola. Una favola che risulta dagli atti. Sì, una favola che risulta dagli atti resta pur sempre una favola. Non è vero, signor Braibanti, che lei impediva Giovanni San Fratello anche la lettura di certi giornali? Sì, certo. Quali? La Settimana Enigmistica. Ad ogni modo, perché lei non convinse Giovanni San Fratello a riconciliarsi con il padre, visto che lei gli era quantomeno, diciamo, amico? Ma che cosa dovevo fare io, visto che i rapporti tra padre e figlio erano, diciamo, quantomeno complicati? Poteva convincerlo a tornare in famiglia. Ci provai. E la sua risposta? Negativo. Le ricordo che Giovanni San Fratello era maggiorenne. Questo lo so. E quindi poteva fare quello che voleva. Questo lo vedremo. Signor Braibanti, perché quando Giovanni San Fratello si reca a Parigi, lei gli scrive: dimmi sempre dove vai e cosa fai? Per amicizia. Oppure, se i casi della vita ti dovessero riportare con la forza a casa tua, è importante che il tuo viaggio continui. Io intendevo un viaggio ideale, avvocato. Non era forse per tenerlo staccato dalla famiglia? Ma no, anzi, ho sempre pensato che uno possa realizzare la propria personalità persino in una famiglia. Non era per tenerlo sottomesso, schiacciato, plagiato? Il plagio non esiste, avvocato. In fatto di condizionamenti, si chieda piuttosto che cosa avviene nelle caserme, nei collegi, nei conventi. Dunque lei non crede alla schiavitù intellettuale? Ci sono sempre stato e sempre ci saranno maestri e discepoli, profeti e seguaci, pastori e capre. Oppure il plagio dovrebbe essere invocato anche contro i padri autoritari, contro i mariti prepotenti, le mogli oppressive e contro i preti tutti. Ma insomma, per lei sarebbe un plagio anche l'educazione, la politica, la religione. Giovanni, l'amore stesso è un plagio. Negativo. Sto solo cercando di non usare un linguaggio troppo crudo. Lo usi, la prego. Io non mi scandalizzo. Ci parli dei rapporti sessuali che aveva con Giovanni Sanfratello? Erano estremamente rari. Non faceva nessuna opera di persuasione? Negativo. Negativo. Era un'emozione che avevamo in comune. Sì. Un'emozione in comune. Signor Braibanti, Giovanni le parlò mai di precedenti esperienze? Beh, ora che ci penso, mi accennò a delle esperienze. Avute quando? In collegio dai preti. No, Braibanti. Io non ci trovo niente di strano, come sa chiunque abbia studiato dai preti. Giovanni le parlò mai di un interesse verso le donne? Interesse addirittura. Le disse che aveva curiosità verso le donne. Sì, mi disse che aveva curiosità verso le donne e interesse verso gli uomini. Naturalmente fu in questo secondo campo che ci riconoscemmo. Signor Braibanti, è vero che lei parlava a Giovanni Sanfratello di omosessualità? Gli omosessuali, avvocato, si sono altamente distinti nella storia della civiltà. Mi limito a ricordarle quel Michelangelo Buonarroti, ben noto anche in Italia, visto che la sua faccia è riprodotta in migliaia di copie delle nostre banconote da 10.000 lire. Poi un altro omosessuale, André Gide, premio Nobel per la letteratura, una volta dichiarò che tra le qualità più nobili delle opere poetiche e culturali c'è sempre quella di inquietare la mente dei giovani. Quanto a me, io ignoravo che nella nostra Repubblica il libero insegnamento delle proprie idee fosse un reato, ritenevo fosse un reato impedirlo, anche quando queste idee fossero inquietanti per i giovani, o forse per i vecchi. Ripeto la domanda. È vero, signor Braibanti, che lei parlava a Giovanni Sanfratello di omosessualità decantandola? Avvocato, altri migliori di me hanno parlato di omosessualità decantandola. Socrate, Sappho, Catullo, Michelangelo, Shakespeare, Byron, Montaigne, Rimbaud, Oscar Wilde, Nietzsche, Marcel Proust. Dunque lei è in ottima compagnia, Braibanti. Insieme a un gran numero di nostri contemporanei. Cara mamma, è vero che questa è una prova dura e odiosa e che i miei avversari stanno cercando di sporcarmi con ogni mezzo, ma niente, nessuno potrà mai intaccare la mia interna fermezza. Io non lo so quanto durerà questo processo, ma anche nell'assurda ipotesi di una condanna, mamma, io voglio che tu sia forte e che abbia fiducia in me. Intanto fosti prelevato dalla pensione Zuanelli e portato in macchina a Modena da quel professor Rossini che ti aveva già visitato nel 60 e ti aveva trovato un 17enne in crisi. Ora lo specialista fa un'altra diagnosi più utile ai tuoi. Schizofrenia! Dalle cartelle cliniche di Villa Rosa si capisce bene di che tipo di schizofrenia tu soffrissi. La giovinezza. 3 novembre 1964. Il paziente dichiara di essere contrario alla famiglia, alla religione, alla società costituita e di voler creare una nuova società. Un semplice professore di belle arti sarebbe stato d'accordo. È come al solito aggressivo nei confronti dei familiari. Ma i tuoi familiari ti avevano letteralmente sequestrato! Oh, Poi, una settimana dopo il ricovero, presentai il ricorso, chiedendo di essere ascoltato dai magistrati e non dai medici dei pazzi. La procura rispose chiedendo le perizie psichiatriche che furono acquisite agli atti. Ma io non venni sentito! Poi passarono 4 mesi e mentre l'inchiesta procedeva, tu fosti trasferito all'ospedale provinciale psichiatrico di Verona, la cartella clinica. 12 marzo 1965. Condizioni generali discrete. A carico dei nervi cranici, nulla. Psichicamente, aria circospetta, spaventata. Ti credo, chiunque sarebbe stato spaventato. Atteggiamento misto tra l'irritato e l'offeso. Tra l'irritato e l'offeso! Ero stato ricoverato in manicomio, era molto più che offeso. Tra in Verona, avevo subito 19 coma insulinici e 40 elettroshock. Quando mi hanno fatto gli electroshock, ho un fenomeno di amnesia e non mi ricordo più le tecniche che usavo. Caro Aldo, tra poco andrò a vivere con i miei, sotto la tutela di mio padre. E ricomincerò gli studi all'università. Da alcune conversazioni avute con il direttore, ho capito che se non mi fossi piegato a queste condizioni, non me la sarei cavata, almeno per qualche anno. Appena esco, mi faccio vivo. Tuo Giovanni. Signor San Fratello. Sì. Quando fuggì di casa la prima volta? Nel 1960. E dove andò? A Parigi. E perché? Perché provavo nei confronti del mio ambiente familiare la più totale intolleranza. E perché era così intollerante, signor San Fratello? Perché i miei impedivano ogni mia iniziativa che non condividessero. La lettura di alcuni libri o il fatto che frequentassi ambienti politicamente di sinistra. Ah, lei aveva addirittura idee politiche. Sì, mi consideravo, anche se genericamente, comunista e frequentavo persone di sinistra, i fratelli Bellocchio e Aldo Braivanti. I suoi erano a conoscenza di questo suo viaggio a Parigi? Certamente. E, signor San Fratello, lei a Parigi che cosa intendeva fare? Avevo cominciato a disegnare e avevo anche una mezza intenzione di dedicarmi alla pittura. Una mezza intenzione? Sì. In ogni caso, quando sono partito, avevo deciso che io a casa non sarei tornato mai più. E mi dica, che cosa pensava il Braibanti di questo suo atteggiamento protestatario nei confronti dei suoi genitori? Diceva che dovevo trovare in me stesso le ragioni di quel contrasto. Perché il Braibanti la raggiunse? Per l'interesse che nutriva per me. E come trascorrevate le giornate? E facevamo molte passeggiate. Perché da Milano vi trasferiste a Firenze? Perché volevo dedicarmi alla pittura. Infatti andammo ad abitare presso il pittore Giorgi, che ci mise il suo studio a disposizione. Quanti letti c'erano nello studio? Non ricordo. Due? Non ricordo. Uno? Non ricordo. Patrimoniale? Non ricordo. Chi pagava le spese, questo almeno lo ricorda? Dividevamo le spese a metà. Fu a Firenze che ricevette la visita di suo padre? Sì, ma ormai avevo già deciso in maniera irrevocabile che io non sarei tornato a casa mai più. E suo padre? Mi disse che avrei dovuto farmi visitare da un neurologo. Signor San Fratello, lei ora ci deve spiegare una cosa. Ora, i suoi l'avevano lasciato andare prima a Parigi e poi a Milano. E allora, perché questo atteggiamento polemico nei loro confronti, visto che le davano la massima libertà? No, no, i miei non mi davano la massima libertà, avvocato. Mi davano la libertà di fare le cose che piacevano anche a loro. E perché da Firenze vi trasferiste a Roma? Perché non volevo più ricevere visite da parte dei miei. E com'era il vostro ménage a Roma? Molto semplice. Ci lavavamo da soli la biancheria, preparavamo da mangiare in camera. Restavate chiusi in camera? No, non ho detto questo. Uscivamo e vedevamo amici comuni. E da solo? Quando lei era a Roma con il Braibanti, signor San Fratello, lei usciva mai da solo? Certamente, io facevo quello che volevo. Non è vero! Io l'ho fatta pedinare per una settimana e lei non è mai uscito da solo! Io facevo quello che volevo! Forse quella settimana non sono voluto uscire, non lo so, io non ricordo. Non è vero forse che il Braibanti le dettò quattro regole di comportamento? Primo, non uscire da solo. Secondo, per strada camminare sempre con gli occhi bassi. Terzo, non leggere il giornale. Quarto, non sognare! Sciocchezze! Ma nessuno ci può impedire di sognare. Signor San Fratello. Sì. Lei, il Braibanti, lo considerava un maestro? No. E che cosa dunque? Un amico. Lo ascoltava volentieri? Sì. E lei manifestava mai le sue idee, lei? Certo. Tra noi c'era uno scambio di opinioni. Con molte domande da parte del Braibanti. Nelle nostre conversazioni Aldo aveva un ruolo principale, sì, ma perché è più colto di me. Non è vero! Le domande che le faceva il Braibanti erano continue, continue! È chiaro che il test sta mentendo! Ammette almeno di aver avuto rapporti sessuali con il Braibanti! Signor San Fratello. Sì. E ripeto la domanda. Ammette di aver avuto rapporti sessuali con il Braibanti? Ammetto di sì. Ammette di aver avuto rapporti sessuali con il Braibanti? Sì. Ai periti lei ha detto che la cosa è incominciata durante il vostro soggiorno a Milano. Sì. E che poi il vostro dialogo si approfondì. Sì. E che a Firenze i rapporti si intensificarono. Sì. Signor San Fratello, sì. Chi cominciò nel rapporto sessuale? Non ricordo. Avanti. Non ricordo. Si sforzi. Nacque spontaneamente. Non è vero, signor giudice, è chiaro che il test sta mentendo. Ai feriti ha detto che a cominciare fu in Braivanti. Non è vero, si trattò di una cosa... Di una cosa? Di una cosa istintiva. Istintiva? Sì, istintiva. I nostri rapporti sessuali erano conseguenza di... Conseguenza di? Di emozioni. Costrizioni? Emozioni. Emozioni comuni. Io accettavo... Che cosa accettava? Io accettavo i rapporti... I rapporti sessuali? Sì. Perché accettava i rapporti sessuali? Perché... Perché li accettava, signor San Fratello? Perché... Perché la obbligava, ecco perché, avanti ce lo dica, si liberi! Perché accettava i rapporti omosessuali? Perché mi interessava. La vittima del plagio negava il plagio, il processo non sarebbe dovuto continuare. E invece no, nel mio caso non fu così, il processo andò avanti lo stesso. E uno dei primi a testimoniare contro di me fu tuo padre. Una volta parlai col fratello di Aldo Braivanti, penso. Gli accennai al fatto che suo fratello potesse essere... omosessuale. No. Ma casomai si può parlare di narcisismo. Però poi ammise che se il fratello aveva contratto il vizio, forse era avvenuto durante la guerra, quando si trovava in carcere. Ma comunque è un fallito. I suoi libri non si vendono, le sue idee non circolano. Ha 50 anni, non ha realizzato nulla, ha bisogno di una vendetta. Poi andò avanti spiegando come ti avrei corrotto. Il culmine della sua azione... Il Braivanti lo raggiunge quando riesce a staccare un ragazzo dalla propria famiglia. Lo fa passare da un atteggiamento polemico fino alla totale insofferenza e quindi all'odio. Beh, è la semplice spiegazione dell'adolescenza, reperibile in qualsiasi buon manuale di psicologia. Braivanti opera nei ragazzi una totale trasformazione della loro volontà. Lo fanno anche la scuola, i Boy Scout, l'Azione Cattolica. Afferma che la famiglia ha avuto una sua funzione storica, sì, oggi però si è perché esaurita. Questo per la sociologia è un dato acquisito. E comunque a Fiorenzuola e dintorni conoscevano tutti la natura dell'interesse del Braivanti verso i giovani, era circondato dal più profondo disprezzo. Ma se ero circondato dal più profondo disprezzo, perché suo figlio è venuto proprio da me a farsi plagiare? E noi non sapevamo mica che lei fosse omosessuale. Ma si è appena detto che in paese lo sapevano tutti! Ma noi eravamo appena arrivati in paese! Che non so mettere persone come Braivanti in grado di non nuocere, non merita mica di sopravvivere, E se voi lo assolverete, gli darete la patente per continuare a fare quel che ha fatto finora, corrompere i giovani. Uomini come Braivanti non si fermano. Cara mamma, ti assicuro che questo processo è uno sforzo tremendo, ma non ti preoccupare, nessuno riuscirà mai a persuadermi di aver commesso un qualche reato. I miei avversari hanno avuto 4 anni. 4 anni per creare un castello di accuse che ora bisogna smantellare con precisione, con coraggio e in pochi giorni. Dobbiamo farcela, mamma. Dobbiamo uscire da questo incubo assurdo e perfido. Ma... Ateismo, le lotte per la libertà, ma soprattutto volevano punire la mia morale sessuale. Gli avvocati di parte civile ci tennero a ripetere che l'aspetto omosessuale del caso non era in questione, ma le loro parole dicevano l'esatto contrario. Vedete, questo processo non è un processo all'omosessualità. Omosessualità che in Italia non è condannata come reato. Questo è un processo a un omosessuale, e non perché tale, ma perché nell'abiezione del suo istinto pervertito ha fatto strazio della libertà, della volontà e della dignità altrui. Non si voleva giudicare l'omosessualità, ma la si definiva... istinto pervertito. Un istinto pervertito contrario alla libertà e alla dignità. Braibanti non viene giudicato per la sua omosessualità, né per il suo ateismo, né per la sua profonda amoralità. Non si interessa quello che pensa il Braibanti del rapporto tra uomo e donna, nella sua lussuria, nella sua volontà diabolica di possedere un uomo secondo una morale in contrasto con quella comune. L'omosessuale in Italia nel 68 era considerato un diavolo. Bisognava, come disse quell'avvocato, ricacciarlo agli inferi. Altrimenti, se il comportamento del Braibanti fosse lecito, sarebbe come firmare una bandiera su cui c'è scritto: pederasti di tutto il mondo, unitevi. E allora, a chi i fanciulli, a chi le famiglie, quando i corpi si rotolavano nel lurido giaciglio? Pensate, signori, alle lacrime di una madre. Otto anni. Giovanni è malato, ma la sua malattia ha un nome. Quello lì. Molti ragazzi sono stati rovinati per colpa di quello lì. Recentemente ho parlato con la mia amica Claudia Bravaschi e lei mi ha detto che una sua amica le aveva detto che un'altra sua amica le aveva detto che un studente di medicina, sua amica, le aveva detto che tutte le accuse a quello lì sono vere, perché anche lui, poverino, era stato vittima di questa triste esperienza. Si voleva gettare sotto un tram. Quello lì gli ha dato da bere un bicchierino di whisky e, mio Dio, si era sfogato su di lui. Io del mio Giovanni non ho mai dubitato, mai. Poi nel 60 incontrò quello lì e... ma io sono sicura che nel 59 al mio Giovanni piacevano le ragazze. Poi un giorno padre Dalbon ci disse che ci poteva essere un'amicizia morbosa, un qualcosa di morale, ecco, tra il mio Giovanni e quello lì. Al che io dissi: mandiamolo da padre Pio. Anche nostro figlio Agostino era comunista, l'abbiamo mandato da padre Pio e quando è tornato perché guarì. Ci sono 8 anni che piango. 8 anni. Ancora oggi il processo Braibanti è considerato da chi lo studia un processo di destra, perché di destra erano tutti i protagonisti del processo, a cominciare dai preti e dai pedagogi psichiatrici che mi accusarono. Per esempio, il primario dell'ospedale dove fu ricoverato Giovanni era il fratello di un noto ministro democristiano. Poi il perito psichiatrico nominato dal tribunale, Aldo Semerari, era un uomo che aveva delle ottime frequentazioni, servizi segreti, Camorra, P2, Banda della Magliana, di destra, anche perché in gioco c'era la libertà di pensiero. Parlare di Braibanti è parlare di degenerazione, di ossessione, di miseria morale, di giovinezze macchiate e sciupate, del bisogno del corrotto di diffondere il vizio così come il drogato diffonde la droga. Giovanni Sanfratello è stato ridotto in totale stato di soggezione da un uomo che ha voluto plasmare la sua mente, quasi distruggendola, lentamente, gradatamente, sistematicamente. Aldo Braibanti ha sottratto un ragazzo alla famiglia, agli amici, agli studi, ai giochi della giovinezza, alle spensieratezze, capito? Lo ha isolato, lo ha assorbito con pazienza, facendo attenzione a non commettere errori. Prima ha criticato, poi ha vilipeso, disprezzato, calpestato i valori fondamentali dell'educazione di questo giovane, costretto a vivere al buio, come una talpa. Tra i bandi, con un dosaggio perfetto, che ha fatto? Ha propinato goccia a goccia nel ragazzo il germe della rivolta. Ha tolto dal suo cuore l'amore verso i genitori. Poi, da esperto di psicanalisi, ha completato il suo lavoro. Ha carpito tutto quanto c'era di più intimo, capito? Nella coscienza di questo ragazzo. Ha creato disperazione, terrore, angoscia, incubo. Ha preso Giovanni Sanfratello schiavo, succubo, incapace di parlare, lo ha fatto muto, silenzioso, assente, e infine lo ha condotto nel suo lurido giaciglio, riducendolo alla follia. Quando Giovanni fu liberato, era sulla soglia del suicidio. Da 4 anni è in cura e non si riprende, è nevrotico, ha una personalità insicura, tra i bandi lo sa. E che fa strutta ed esaspera i dubbi di questo ragazzo per annullare il suo mondo e per sostituirlo con altre idee. Hai capito? Braibanti ha una personalità volitiva, ha un'intelligenza subdola, viscida, omosessualmente intellettuale. Poi, diciamocelo pure, Aldo Braibanti è brutto! Oh, se avesse potuto farsi più bello certamente l'avrebbe fatto. Invece il suo aspetto è rimasto quello che è: piccolo, stortignaccolo, vittima di complessi di inferiorità. Lui ha cercato la sua rivincita servendosi di un'intelligenza lucida, fredda, per dominare ed essere il primo a tutti i costi. L'uomo nasce libero, Dio lo vuole libero. Ma Braibanti è un essere senza carità, è solo cervello, è solo sesso. Il suo scopo non era solo quello di imbossessarsi del corpo di questo maschio, ma pure della sua anima. Per noi c'è un Dio che fa sentire la sua voce, ma per quest'uomo schiavo dei sensi non c'è Dio, non c'è! Ha insidiato l'anima di Giovanni Sanfratello con luciferina volontà, malvagio, perfido, osceno. Io chiedo una pena esemplare, giudice, affinché nessun professor Ungolo possa venire domani a togliere la libertà a un innocente. Nonostante l'accusa avesse portato delle prove assurde, pagato i periti psichiatrici e corrotti i testimoni, i miei avvocati erano ottimisti. Il plagio era un'ipotesi di scuola. L'articolo 603 era da considerarsi un rudere giuridico. Da quando nel 30 era entrato a far parte del codice penale, nessuno mai era stato condannato per quel reato. Nessuno mai. Cosa da aggiungere prima che la corte si ritiri per la sentenza? Il plagio non esiste. In nome del popolo italiano, visti gli articoli 483, 488 e 489 del codice penale, la corte dichiara Braibanti Aldo colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e a quelle del suo mantenimento in carcere. Risposta possibile sia il ricorso alla caccia alle streghe. Umberto Eco addirittura gridò nel suo sdegno. Manifestiamo, disse, manifestiamo per le strade, manifestiamo davanti ai tribunali. Questa è una battaglia per la cultura, della vera cultura contro la cultura delle mezze calzette. Elsa Morante disse... In un mondo dove certi processi e certe sentenze sono assicurate dalla legge e approvati dalla popolazione, in un mondo come questo, gli scrittori, i poeti, i filosofi, gli intellettuali tutti possono, devono considerare una onorificenza e un premio essere sbattuti in galera o in manicomio. Dov'è l'intellettuale oggi? Si chiedeva Pierpaolo Pasolini. Nei ghetti, dove sono i poeti, lì oggi è l'intellettuale. Brebanti è quel tipo di intellettuale che ha rifiutato l'autorità che gli sarebbe venuta dall'essere considerato un intellettuale di sinistra o un intellettuale creato dall'industria culturale. La presenza di Brebanti nella cultura, invece, è sempre stata intelligente, discreta, priva di vanità, incapace di invadenze. Quello che Braibanti ha prodotto, l'ha proposto, non imposto. E allora, qual è il delitto che avrebbe commesso Braibanti per essere condannato con questa pretestuale accusa di plagio? Il delitto di Braibanti è la sua debolezza, ma dalla sua debolezza deriva anche la sua autorità. Sono delle parole molto belle, certo. E allora... Che effetto ebbero queste belle parole? Nessuno. 9 anni, poco meno di quanti ne hanno dati ai responsabili del disastro del Vajont, che a differenza di me fece 2000 morti. Giovanni, dopo il processo io non l'ho più rivisto. Non l'ho cercato per non danneggiarlo. La forza? La costanza per resistere? Chi me l'ha data? No, non lo so. Io credo forse l'osservazione delle piante. Intendo le piante selvatiche, quelle che la gente chiama comunemente erbacce. Ecco, forse la gente non sa che le erbacce riescono a bucare persino il cemento, perché sì, uno può anche darsi da fare, pulire, disinfestare, ma dopo ogni disinfestazione le erbacce ricrescono. Tu da me, io da questo mondo che mi diviene estraneo, quasi in formica azzurra, verso il grigio crepuscolo delle menzogne. Va, formica azzurra, verso la bianca maledizione degli uomini. Io rimpiango i tuoi teneri baci di sangue, il tuo vacillante passo di clown che mi viene incontro. Formica azzurra, l'amore trabocca prima e dopo di noi. Le folle ubriache di solitudine non sanno che basta una foglia verde, che basta una lucertola sul muro, che bastano un vecchio e un fanciullo che si guidano a vicenda tenendosi per mano, che basta la tua camminata fra gli alberi del viale, che basta lo sconfinato stupore per la pioggia, che basta lo sconfinato stupore per il sole, che basta lo sconfinato stupore per il tenue arcobaleno, che basta la brezza del tramonto per riscattare l'illusione del dubbio. Formica azzurra, ricordi? Cercavamo la nostra lingua segreta e il dialogo era sincero come una confidenza di adolescenti. E il dialogo era sottile come il vento in un campo di grano turco. E il dialogo era di cristallo come una sorgente di montagna. Ricordi, formica azzurra, io piangevo prima della tempesta. Io ti venivo incontro per rifugiarmi nella comune innocenza. Mi hanno detto che hai scelto la libertà, formica azzurra. E io dico che è troppo facile scandire frasi fatte. L'uomo può uccidere, ma essere anche un canto. È così, formica azzurra. Io chiamo poesia un minuscolo gesto. L'ombra di un attore su un palco, un passo verso l'autentica nudità. E io tento ancora di cantare. La mia libertà è questa mia volontà, la necessità del mio sforzo. La mia libertà è liberazione continua per non cantare i miti consunti di ieri e di domani. La mia voce si fa scudo contro i signori delle verità senza appello, contro gli sciocchi che si credono padroni della terra, contro i carnefici, grandi e piccoli, contro chi è pronto a dare la caccia ai cani sciocchi, contro chi è pronto a dare la caccia ai cavalli scossi, contro chi è pronto a dare la caccia ai fragili amanti, contro i predicatori che sotto la tonaca nascondono il coltello, contro i predicatori che castrano il desiderio, contro i predicatori che blaterano di paradisi, contro tutti loro io non posso fare altro che cantare. Io, formica tra le formiche, io solerte, formica planetaria, io formica azzurra come te, senza nostalgie per tutti i Zarathustra occidentali, senza rimpianti per le barbe profetiche di tutti i guru, senza progetti di lager, senza progetti di macelli per uomini, senza progetti di macelli per cuoie, senza progetti di macelli per vitelli. Io sono un pellegrino in viaggio verso rifugi che forse non esistono, per ribellarmi all'impotenza, questo mare di tecnologie, mare di informazione, per non avere paura di superare la soglia del dolore, per sfuggire alla saturazione culturale, per colmare lo iato tra natura e cultura, per mettersi infine in pace con la terra che gira intorno al sole. Per questo e per molto altro ancora, non cerchi una formica azzurra di livellarci col loro rullo di piombo, non ci minacci, non lo facciano formica azzurra, non lo facciano i nemici, non lo facciano gli amici, non lo facciano le turbe, non lo facciano formica azzurra, no. O sarà peggio per loro. Noi siamo gli arlecchini della vigilia. Noi sappiamo che chi non conosce non ama. Noi vogliamo riscoprire la meraviglia dell'aurora senza fughe scelerate, verso sconfitte sicure. Dove vai? Porta da nessuna parte, lo sbarco sui pianeti non dà scampo a chi non è capace di cambiare. Dove vai, uomo? Dove vai con le tue trombe dello sterminio? Dove vai se il comando è solo quello di fare più figli, se la fede che ti sostiene è solo quella dei martiri, degli eroi laureati? trasvoliamo, formica azzurra. Trasvoliamo oltre questi anfratti domestici. Trasvoliamo verso colline turchesi. Trasvoliamo verso oceani gialli. Trasvoliamo verso verdi sequenze di primavera. Trasvoliamo presto. Trasvoliamo, mio dolce compagno di viaggio.